Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rita. Ciao. Sono in diretta? Sì, sei in diretta. Ah, niente, volevo... Mi sento? Non sento più. No, no, c'è uno strano ritorno, almeno io c'ho uno strano ritorno pure, in cuffia. Pure arriva. Proviamo a vedere se adesso tutto va per il meglio. Vai, vai. Sentite? Sì. Ecco, buongiorno. Sono Rita da Venezia, sono iscritta a RGB USB, Massimo mi conosce, mi vuoi. E colgo l'occasione per salutarli. Io sono molto preoccupata perché chiaramente sono una dipendente dell'Impedap, appunto, e la cosa che mi fa stare molto a disagio è vedere tante alcune persone che proprio non... sembra che questo problema non esista, anche proprio colleghi. E persone che sono addirittura iscritte all'Impedap non sanno neanche cosa sia l'Impedap, i mass media non danno assolutamente l'adeguata informazione. L'unica informazione che io ho visto, che riguarda solamente trasmissioni del tipo giornalistico, è appunto la 7, dove Massimo è intervenuto con Piazza Pulita, Rai News, dove l'ho visto parlare, oltre ad aver avuto il link, ma trasmissioni un intervento di TG3 Venezia dall'Impedap di Verona. Basta, io tutto questo periodo non ho sentito altro, benché ascolti sempre questo tipo di informazione. Sono ovviamente molto preoccupata perché sono rientro tra le categorie, sono un B3, e io chiedo a Schiadavoli, che a Massimo che mi sente, se c'è qualche speranza di qualche di un incontro, se si riuscirà almeno con il nostro sindacato a poter avere maggiori notizie, perché qui con le sigle non dicono assolutamente nulla, sono assenti, tranne onestamente l'UGL assieme all'USB, e se è possibile anche fare eventualmente una manifestazione, tutti i sigle sindacali, e dare la possibilità alla gente, organizzare magari il pullman e di venire a Roma, perché chiaramente ci sono dei grossi problemi anche di movimento, però sarebbe utile che le sigle tutte si mettano insieme e per il caso di Impedap ovviamente Krempers. Senti? Sì, sì. No, ti volevo dire, proprio su questa questione della manifestazione che viene proiettata per il 17, no? Sì. E sono centinaia di messaggi che ci arrivano da tutte parti dell'Italia che lo chiedono, sì. E lo chiedono in maniera unitaria. Io sono dei COBAS Massimo e dell'USB, sì. Noi ci troviamo, ecco, siamo insieme, facciamo una trasmissione radiofonica dove possiamo unitariamente. Le altre sigle sindacali non è che sono molto attente all'unità. Dato che questa unità noi la condividiamo, l'unità deve venire dal basso e non dall'alto, io dico autoconvocatela, come posso dire, le coperture sindacali possono essere garantite da queste due sigle, senza voler mettere cappelli o cappellini, però se aspettiamo che ci mettiamo d'accordo i COBAS con l'UGL, voglio dire, mi divento questo lo so, lo so perfettamente, mi ripeto, sappiamo, poi io posso mettermi d'accordo al massimo con uno sforzo culturale, mentale, con la CGL, con le altre sigle c'ho qualche problema per me. Penso proprio nei riguardi nostri, ecco. Però voglio dire, il problema è talmente grosso che purtroppo, come si suol dire, l'unità fa la forza, si dicono, no? E quindi sarebbe stata una cosa positiva. Tutto qui. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo. Ecco, però diciamo, ovvio, ci sono tanti problemi. Io stessa non sento assolutamente, non vedo neanche assolutamente muovere ciglia da parte di altre sigle, non parliamo proprio della CISL che ci inviano email con la faccia di Monanni, che non me ne frega assolutamente niente con tutta la sua politica che sta facendo. Io mi auguro che si riesca a fare qualche cosa, perché veramente non si riesce più a vivere. Stanno facendo una brutta politica e chi ci rimette sono i lavoratori. Ci abbiamo già rimesso noi, che io appartengo dalla categoria ex Empass, e l'ex Empass e le ex postali ci hanno già rimesso in passato. Siamo adesso tutti ex di qualcosa all'Inpidap, sì. Ma diventiamo ex Inpidap. Sì, gli ex del tesoro si sono collocati bene. Scusami Rita, Massimo. Ciao Massimo, ti interrompo perché non vorrei che entrassimo troppo nei dettagli delle vite passate. Guardiamo i problemi che ci sono qua. Tu giustamente dici che cosa possiamo fare. Che cosa possiamo fare per quello che ci aspetta. Allora, guarda, sì, noi abbiamo detto fin dall'inizio, abbiamo già iniziato a mettere in atto, lo sapete benissimo, chi ci ascolta probabilmente sa anche quello che abbiamo già fatto. Abbiamo occupato la direzione generale dell'INPDAP, abbiamo fatto un presidio sotto il Ministero del Lavoro, siamo andati a fare un presidio sotto all'INPS, abbiamo fatto convocato un'assemblea nazionale. A cui però hanno partecipato, appunto, sono intervenuti i colleghi dell'Aquila, sono venuti i colleghi da Firenze, sono venuti i colleghi da Ravenna. Era un'occasione per dire muoviamoci tutti quanti assieme, e noi l'abbiamo proclamata per cercare di mettere assieme tutti quanti i colleghi. Comunque non abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto soltanto delle promesse, degli impegni. Mastro Pasqua ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano dicendo ci metto la faccia per garantire l'assorbimento di tutti quanti i lavoratori. Allora, siccome stiamo parlando di questo argomento senza aver detto con precisione che cos'è, colgo l'occasione della tua telefonata per dire per bene qual è la questione. Allora, la questione è: ci sono circa 700 lavoratori considerati in esubero rispetto all'organico, in sovrannumero rispetto all'organico mai aggiornato dell'INPDAP. E in particolare fra questi 700 ce ne sono 570 che sono gli ex custodi degli immobili, quelli di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, cioè del patrimonio che è stato venduto con la cartolarizzazione di Tremonti. I custodi di quegli immobili sono stati acquisiti da tutti gli enti previdenziali. Il paradosso è che i portieri dell'INPS rimarranno all'INPS, i portieri dell'INPDAP finiscono in mobilità. E la mobilità, come dice oggi la norma, perché oggi la norma è chiara, quello che hanno scritto nel decreto è: questo personale va o ricollocato in altre amministrazioni o 2 anni di mobilità, o 2 anni di cassa integrazione e poi licenziamento. Allora attenzione, perché questo, stiamo toccando un argomento che è importantissimo non soltanto per l'INPDAP e per i 700 lavoratori dell'INPDAP, su cui noi non smetteremo di dare battaglia fino a quando non avremo ottenuto la garanzia scritta nero su bianco, scritta col sangue, dico io, la garanzia del riassorbimento all'interno dell'organico dell'INPS. Ma attenzione, perché ci ascoltano anche altri lavoratori ed è bene che anche gli altri capiscano che questa situazione di ridimensionamento della pubblica amministrazione è un fatto generale. Stanno chiudendo gli uffici di Grazia e Giustizia, stanno trasferendo le competenze delle attività delle province ai livelli regionali, stanno mettendo in mobilità oltre 2.000 persone nel Ministero della Difesa. So di centinaia di persone che dalla sede di Messina gli è stato detto di spostarsi il proprio lavoro e di andare a Baiano di Spoleto, significa sradicare le proprie radici. Cioè, questo è un fenomeno generale di ridimensionamento della pubblica amministrazione, con effetti deleteri pesantissimi sui lavoratori che vengono messi in mobilità, e si realizza quello che l'Europa ci sta chiedendo e che Monti deve realizzare, e prima Ettore ricordava, il licenziamento dei dipendenti pubblici, perché non c'è una riduzione dei costi se non si arriva a un ridimensionamento in questo modo, perlomeno nella logica che hanno Monti e chi lui rappresenta. Quindi precisiamo questa cosa: 700 lavoratori dell'INPDAP su cui noi non molleremo. Poi chi vorrà stare con noi in questo percorso, ben venga, ma se qualcuno ci chiede di metterci a braccetto con CGIL, CISL e UIL, è compreso UGL, che oggi montano sul carro, tentano di montare sul carro perché qualche risultato è ottenuto, e noi veniamo da occupazioni, presidi, lotta, è una cosa difficile, capisci? Scusi, ma non è che io intendevo dire che possiamo pensarla come loro, lo so benissimo, la situazione è la prova al 100%. Io dicevo, in questa circostanza, vedere se era possibile unificare le forze, anche se mi sembra, anche a me sembra un po' assurdo, però quando sei preso nella disperazione cerchi tutti i tentativi possibili, capito? Questo il mio punto. Poi dopo attenzione, perché si rischia di fare un errore madornale, perché riferimento proprio a quei soggetti che mentre chiude l'INPDAP vanno a fare il fondo pensionistico complementare. Quindi state affidando nelle mani di chi vuole questa situazione. Quindi attenzione a quello che si fa. Scusa, mi ricordo come Rita. Io ti dicevo ancora di più alla questione. Io ho parlato proprio stamattina, prima di venire in radio, con alcuni esponenti della Quille, per esempio. Dice, ma noi stiamo aprendo una trattativa a vedere come affrontare il problema, e sono predisposti a contrattare sui licenziamenti. Cioè, quando tu ti predisponi, significa... Scusate se mi interrompo, siccome sono col cellulare e si sta scaricando la batteria, non mi vorrei lasciare allora grazie Rita, grazie per il tuo intervento. Ho già avuto una mi ascolto per radio. Grazie, buon ascolto. Grazie, ciao. In bocca al lupo. Ciao, grazie. Cioè, quello che stavo cercando di dire era questo, dato che ci ascolta, è che se si mettono a disposizione ad aprire una trattativa con Mastrapasqua per contrattare licenziamenti, già vuol dire che sui 700 sono disponibili, no? A lasciarne magari 200 licenziati. Noi non siamo d'accordo, noi diciamo che vanno salvaguardati tutti, e non solo i lavoratori pubblici, ma anche tutto l'indotto che c'è all'interno di questo ente. Noi abbiamo centinaia di donne delle pulizie che vorremmo verrebbero salvaguardate, che anche quelle hanno famiglia, hanno il mutuo. Ci abbiamo centinaia di lavoratori operai manutentivi, che anche questi dovrebbero essere tutelati, no? Se noi andiamo a vedere i vigilanti e via dicendo. Noi vorremmo di tutto, noi vorremmo aprire le trattative per stabilizzare tutte queste realtà, non per contrattare sui licenziamenti, perché uno che si appresta su sta cosa, se c'è la telefonata, pronto? Pronto, ciao Ettore, sono Gavino, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo dire cosa che già state sottolineando voi, no? Però in questo tentativo di distruggere gli enti previdenziali c'è proprio quella anche di eliminare quella che si dice il potenziale umano, no? Ecco, cioè eliminare i lavoratori. Su questa base viene messa in circolazione che i lavoratori degli enti pubblici sono fannulloni, eccetera eccetera. Io sono stato lavoratore degli enti pubblici ormai lontano da anni, però devo dire una cosa: i lavoratori degli enti pubblici molte volte, quasi tutti, sono del personale altamente qualificato, altamente specializzato e anche dediti al lavoro. Quindi secondo me è un dovere del lavoratore stesso, assicurato presso l'ente previdenziale, difendere questi posti di lavoro, perché sennò si disperderebbe un potenziale umano che diversamente ci vorrebbero anni da ricostruire. Quindi creare un'unità fra lavoratori dipendenti degli enti e lavoratori assicurati agli enti. Secondo me questo è decisamente importante. Comunque sentivo che già voi affrontavate questo problema e da sottolineare e da rafforzare. Guarda, in proposito, sono Massimo. La telefonata di prima, la collega che ha telefonato prima dall'Aquila, hanno preso un'iniziativa che mi sembra molto importante, che io vorrei, chi ci ascolta, estendere a tutte le sedi dell'INPDAP in questo caso. hanno fatto una sorta di albo di sottoscrizione da parte dell'utenza, quindi del personale della pubblica amministrazione che l'INPDAP riceve agli sportelli per le varie attività che vengono chieste, ha realizzato una sorta di albo, no? In cui mettere le firme in appoggio a questa cosa che tu stai dicendo, cioè non mandare al diavolo, scusate il termine, le professionalità, i lavoratori e le professionalità che i lavoratori rappresentano, perché sono una ricchezza, e su questo chiedere appunto il supporto, l'aiuto dell'utenza. Però su questo, tanto per tranquillizzare Gavino qua, che diceva, a noi hanno fatto l'esperimento delle faccette stronze dei Brunetta, no? I faccini che hanno messo lì, e hanno tirato fuori un bilancio dei sondaggi, il 92% si è dichiarato altamente soddisfatto dei servizi del personale che fornisce all'URP. Allora, dato che questa operazione era troppo a favore dei dipendenti, col cavolo l'hanno ripreso la notizia ai giornali per far dimostrare che i fannulloni erano altri che ne parlavano, perché se in Italia c'è un fannullone che non ha fatto mai niente e di buono è proprio Brunetta, che però ci ha etichettato assieme a Ichino come se siamo il guaio del debito pubblico nazionale. Insomma, su sta cosa noi ci dobbiamo, non ci possiamo stare, dobbiamo reagire, dobbiamo perdere quella moderatezza del dipendente pubblico, no? Perché non viene visto come classe operaia che magari si incazza, è ora che diventa classe e si incazza, perché se non si incazza, ma se stava facendo un elenco, gli elenchi si ampliano di più, non a caso richiama nella legge la legge che è stata varata a giugno, dice tutto sto personale in esubero va collocato là, più va collocato il 10% da riduzione del personale, sempre con la modalità della mobilità per 2 anni, no? E immaginiamo, noi prima avevamo spiegato che se possono cuccare il credito, ci saranno un altro migliaio di persone che lavorano intorno al credito, che verrà pure questo inserito nella mobilità, e una catena in Sant'Antonio non si serve a nessuno. Dobbiamo incazzarsi tutti. Io ho 39 anni e mezzo di servizio, sono del 52 e non me ne posso andare perché mi hanno bloccato la vita lì dentro per altri 6 anni, e io devo subire magari il rischio di essere messo in mobilità e restare senza stipendio per un periodo di tempo. Cioè, allora ci dobbiamo incazzare tutti, non c'è nessuno che si salva dentro questa operazione, e se non c'è una reazione vera a sta cosa, intanto ecco. Saluterei Gavino. Ciao, ciao Gavino, ciao, grazie. Mi hai dato la possibilità di intervenire. Buona Figurati. Continuazione a tutti. Grazie, buon lavoro, ciao, grazie. Ciao. Ecco, perché abbiamo un'altra telefonata, vediamo un po', la prendiamo. La prendi tu? Sì. No. Riprendiamo la linea, è quasi mezzogiorno, perché abbiamo al telefono un'altra dipendente dell'INPDAP, questa volta della sede di Verona. Ciao, buongiorno. Sì, ciao, sono Cristina Brunelli di Verona. Ciao, ciao Cristina. Mi sono occupata direttamente della faccenda prendendo l'iniziativa di scrivere appunto una lettera al Fatto Quotidiano, che poi ha dato origine a questo articolo veramente esaustivo e del tutto interessante di Thomas Mackinson, che tra l'altro ha prodotto questa intervista al direttore dell'INPS. Diciamo che al di là della problematica relativa ai 700 colleghi, che peraltro costituiscono il 10% del totale del personale dell'INPS, quindi parliamo di cifre veramente esorbitanti, al di là del fatto che è facile anche ritenere che queste 700 persone non siano affatto inutili nel bilancio di quello che è il lavoro quotidiano che viene svolto dai lavoratori, perché come diceva anche la collega dell'Aquila, sono persone ormai che sono professionalizzate, sono preparate, partecipano attivamente e del c'è un assoluto bisogno per continuare a garantire un servizio. È chiaro che l'operazione che si sta compiendo in questi tempi è proprio quella che voi avete sottolineato più volte, di smantellare un servizio pubblico. Quindi ci sono problematiche che si insinuano su piani diversi. Sempre la minore importanza che viene dato al lavoro. Il lavoro inteso proprio come una struttura per la società, cioè il lavoro quotidiano che viene svolto dalle persone. Si parla di licenziamenti, di esuberi come se fossero questioni di poco conto, statistiche, numeri. In realtà coinvolgono direttamente la vita delle persone. Questo non solo per il settore privato, ma anche per il settore pubblico. Vediamo che ormai il lavoro come se avesse sempre meno rilevanza, sempre meno importanza. E non fanno altro che parlare di bilanci, di finanza, di operazioni che hanno sempre meno a che fare con l'economia reale, insomma. E l'operazione peraltro di smantellare il servizio pubblico, è chiaro che l'obiettivo è quello di dare spazio e azione sempre di più ai privati, insomma, a parte la previdenza complementare, ma un po' su tutti gli ambiti. È chiaro che il privato deve avere uno scopo molto preciso, che è quello del profitto, non è certo quello di offrire un servizio pubblico. In realtà fondamentalmente ad una situazione come quella americana, che chi può permettersi di pagarsi un'assicurazione, di pagarsi una futura pensione, potrà permetterselo e gli altri resteranno a bocca asciutta. Ecco, io penso che questo sia veramente grave sotto ogni punto di vista. Quindi... Sì, assolutamente. Tra l'altro hai fatto benissimo a porre come esempio le esperienze dei paesi in cui il sistema della previdenza complementare è, diciamo, una realtà ormai da un po' di tempo, in modo particolare quindi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Si può dire che, ecco, diciamo, nell'area anglosassone il sistema appunto della previdenza privata è ormai un fatto assodato e non mi sembra che i risultati siano esattamente ecco. Proprio quello, davanti a dei risultati palesemente negativi, si procede nella stessa direzione, con la complicità peraltro esplicita dei sindacati, perché davanti ad alcune riunioni, anche a Verona ce n'è stata una presso un teatro in cui c'erano diversi dipendenti pubblici, l'esordio di un sindacalista della CGIL è stato: benissimo, abbiamo delle difficoltà con la previdenza pubblica perché le pensioni saranno basse, io vi consiglio di farvi una previdenza complementare. Sapete benissimo che i sindacati sono cogestori dei fondi di previdenza complementare, quindi hanno un interesse specifico nel portare avanti questo discorso, e sapendo peraltro che questi fondi sono gestiti con un sistema privatistico, quindi sono fondi che hanno una partecipazione in borsa, che l'esito non è garantito e quindi mettono a rischio la pensione stessa. Cioè, anche i sindacati si rendano complici di una situazione come questa, io lo trovo di una gravità estrema. Viene meno assolutamente la funzione fondamentale del sindacato, che sarebbe la tutela del lavoratore. È incredibile il fatto che comunque rimangano, come dire, godano ancora del credito che purtroppo, insomma, i loro tesserati continuano a dargli nel momento in cui agitano lo spauracchio dello sciopero generale proprio sul tema delle pensioni. E questa è una bella contraddizione. E poi ne fanno solo 4 ore. Per una riforma di questa portata, che ha cambiato, stravolto la vita dalla mattina alla sera di alcuni milioni di persone, ci hanno fatto uno sciopero di 4 ore. Era solo mettere una bandierina per fare era un pretesto per rilasciare qualche dichiarazione sui giornali, ma concretamente non hanno fatto niente, questo lo dobbiamo dire. Perché il disegno il però del pubblico impiego era comunque di 8 ore dell'intera giornata, ma in realtà il cappello di questo sciopero era lo sciopero contro la manovra, che voglio dire peraltro è abbastanza fumosa come indicazione. Se si parla invece di uno sciopero contro l'abbattimento della previdenza pubblica e quindi dei servizi sociali, perché poi alla fine si tratta appunto, come dicevate, anche del credito, ci sono tante attività che vengono ad aiutare delle situazioni familiari spesso complicate, perché gli stipendi dei pubblici sono comunque mediamente molto bassi, lo si sa, quindi forme di ausilio come l'attività creditizia, le colonie, le vacanze studio all'estero, le borse di studio sono comunque un ausilio importante. Se lo Stato viene meno alla sua funzione di supporto alle famiglie, alle persone, cioè va bene, allora diamo spazi ai privati e il privato si sa benissimo qual è il suo scopo, non può essere servizio pubblico, è una contraddizione in termini. Va bene, d'accordo, noi ti ringraziamo Cristina, grazie per il tuo intervento, a ciao, a presto. Ciao, ciao, arrivederci. Voglio, se posso, voglio ritornare un attimo sulla questione degli esuberi. Allora, voglio chiarire un po' meglio la situazione. Allora, per l'INPDAP parliamo di 700 persone che, stante la norma disciplinata dal decreto, scritta nel decreto, oggi sarebbero costretti comunque alla mobilità, se non ricollocabili in un'altra amministrazione. E visto che anche se le altre... non intervengono cose diverse, sì, cose da diverse. Oggi, certo, dal primo, certo, gennaio. Certo. Dal primo gennaio, per come è scritta la norma, è come se ci fossero già le lettere di licenziamento. È come se ci fossero le lettere di licenziamento. Qualcuno aveva avanzato questa cosa, allora bisogna chiarirla. È come se ci fossero le 700 lettere di licenziamento. Questa è una realtà che bisogna iniziare a guardare con gli occhi aperti, non nascondersi dietro al dito, perché altrimenti poi si rischia veramente di farsi male all'ultimo minuto. Non è più possibile rimediare ai guasti di qualche provvedimento. Per esempio, tutte le iniziative che sono state prese a suo tempo sono state prese prima che il decreto fosse approvato, per tentare di modificare il decreto. Poi il decreto è stato scritto, quindi si è tentato di fare un intervento nell'approvazione del mille proroghe per modificare ancora una volta quello che era scritto, e si è modificata, perché non è che non hanno modificato, l'intervento c'è stato, il ministro Fornero, che abbiamo incontrato sotto nel presidio sotto al suo ministero, ci ha detto che si sarebbe interessato del problema. Si è interessata, è vero, del problema, si è interessata del problema del funzionamento dell'INPDAP, cioè il fatto che i crediti non potevano, i mutui non si potevano più fare, che avevano sospesi, che erano stati sospesi, non si poteva più andare in giudizio perché gli avvocati non potevano più affrontare il contenzioso non avendo più l'ente di riferimento dietro le spalle che gli dava mandato, per cui tutta l'attività del contenzioso gli avvocati non potevano più sostenerla. C'era un problema relativa alla FIMIT, il fondo quotato in borsa, perché lo statuto prevedeva l'INPDAP come soggetto, l'INPDAP non c'è più, quindi di corsa a modificare lo statuto. Quindi sono intervenuti, certo, nel decreto, se uno va a vedere, nel decreto e nel mille proroghe sono intervenuti su questi argomenti, hanno prolungato in qualche modo l'attività degli organi proprio per garantire la copertura di questa cosa. Quello che non hanno fatto è scrivere due righe rispetto ai 700 che sono in mobilità. Allora dobbiamo aprire gli occhi, i lavoratori devono aprire gli occhi, non pensare che le cose siano risolte, c'è da lavorare, c'è da dare battaglia, anche perché comunque quello che abbiamo chiesto noi al ministro Fornero sotto il ministero nel presidio era non solo la garanzia sui 700, ma anche sul fatto che domani, comunque, siccome l'INPDAP è stato soppresso, l'EMPALS è stato soppresso e si costituisce il nuovo soggetto che è questo subbenedetto Super IMSS, domani 30.000, dai 30.000 posizioni in organico bisognerà operare un taglio, un ulteriore taglio del 10%, richiesto dalle norme approvate dal precedente governo Berlusconi. Significa su 30.000 persone 3.000, siamo punto e da capo. Anche se riassorbiamo i 700, domani ce ne sono altri 3.000 che si rischiano di essere in esubero. Cioè, la partita è questa. Quello di cui bisogna convincersi tutti quanti è che la partita è che si vuole ridimensionare la pubblica amministrazione dal punto di vista degli organici, che rappresentano il costo per loro, il costo prevalente su cui tagliare per rientrare appunto in quei risparmi, perché altrimenti i 20 milioni, 50 milioni, 100 milioni, che sono bruscolini rispetto ai 400, 700 miliardi che gestirà l'INPS, 20 milioni, cioè glieli do io, per, no? Si fa per dire ovviamente, no? Ma rispetto ai 700 miliardi, 20 milioni sono proprio lo 0,000. Non a caso la Confindustria sa, in questi giorni, proprio ieri, riparta la carica su questa questione. Bisogna avere il coraggio di licenziare anche i lavoratori pubblici. Che poi era la e questa operazione che dicono il taglio del costo della politica, che poi diventa tutta una cosa solo di propaganda, e quando dicono sciogliamo le province, alle province ci sono lavoratori. Che fine fanno nel momento che c'è questa legge? Perché poi questo è. E quando si parla di ridimensionare la cosa, non è che queste opere vengono meno. Vedi che sa cosa c'è l'Impedap? Avrebbe bisogno, teoricamente, come pianta organico, era stato stabilito in 11.000 dipendenti. Noi lavoriamo, adesso siamo 6.500. compreso i 700 dei subero, diciamo, no? Perciò siamo sotto organico complessivamente, che invece ci dicono che ci sono i soprannumeri, ma non è perché non abbiamo fatto meno cose, cioè queste cose sono state date con maggiori costi, se l'avessimo avuto direttamente noi la gestione, all'esterno. E perciò tutte le attività, quando dicono riduciamo là, così le attività da fare le faranno fuori altre persone, precari, no? O ditte speculative. Questa è l'operazione. Noi, basta vedere quello che è successo da noi, la gestione del patrimonio immobiliare l'hanno dato fuori, l'ha preso un delinquente, uno dei tanti, no? Come si chiamava? Romeo. Romeo, che è finito in galera, e ci ha sperperato il patrimonio con costi maggiori, no? Se l'avessimo gestito noi, bene o male, con parsimonietà. Prima noi davamo le case in affitto, prima della vendita, e l'hanno detto, noi non siamo affittacamere, no, le diamo in gestione fuori. Allora, prima di darle in gestione fuori, rendevano poco, dicevano 3% l'anno come rendita utile. E dice, i buoni del tesoro danno di più, perché all'epoca nel 94 davano il 6%, forse era pure vero, nel 7%, ma però ci avevano un 3% di utile. Appena date in gestione a questo Romero e altri, l'anno successivo nel bilancio sono andati sotto del 5%, cioè meno 5%. Abbiamo fatto i guadagni in Maria Cazzetta e ci siamo trovati con gli esuberi. Ecco quello che avviene. Allora, questa operazione in questo senso viene, deve essere spiegata. Ecco perché noi diciamo che la cosa si riguarda direttamente a quelli che poi perdono il posto di lavoro direttamente, ma riguarda tutti, tutti i dipendenti, tutti i lavoratori, tutto, perché se smonta la previdenza pubblica sarà per pochi la pensione privata. Una cosa per riprendere il filo appunto della previdenza pubblica, dell'attività dell'Impedap e dell'INPS. L'Impedap, fra le varie attività che svolgeva, faceva assistenza ai propri pensionati relativo alla dichiarazione dei 7.30, alla dichiarazione dei redditi. Svolgeva questa funzione. Gratuitamente. Gratuitamente. Continuava a svolgere, a fare questa funzione. L'INPS, di recente, ha rinunciato a svolgere questa funzione e l'ha delegata ai patronati CGL, alle sigle sindacali. Domani l'attività che dei 7.30 che l'INPDAP continuava a garantire, passando in INPS, l'INPS, visti i precedenti, continuerà a mantenerla come faceva l'INPDAP, oppure passerà anche questa ai CAF di CGL, CISL e UIL? Allora, su questo si gioca la partita, sugli interessi che ci sono rispetto a questa cosa e la privatizzazione di questa partita. E all'interno di questo discorso si evince chiaramente un po' da tutti gli interventi che si sono susseguiti, i sindacati chiaramente agiscono da cogestori. proprio noi siamo sulla... sindacati che concertiamo un cazzo, però, chiaramente eh? Ci riferiamo ai sindacati concertativi, perché se no c'è... proprio per ritornare e poi andare a chiudere col redazionale di oggi sulla questione della previdenza complementare, magari facciamo l'ultimo breve stacco e poi torniamo a occuparcene, così giusto per dare l'idea di uno scenario futuribile. Facciamo finta che la pensione pubblica è definitivamente abrogata. C'è una telefonata, allora la prendiamo. La prendiamo. Pronto? Aspetta un attimo. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Dici. Di Cagliari. Sono un, senti, uno di quei. Abbassa il volume dell'apparecchio con cui ci stavi seguendo perché sentiamo il ritorno. Sì, niente, attendo. Grazie, sono... vai. Forse sono in diretta. Sì, sei in diretta, sì, vai. Ah, niente. Niente, io sono uno di quei dipendenti che in esubero, faccio parte di quei 700. Quindi sono molto preoccupato della situazione, in quanto non ho ancora visto, come dice Briguori, delle notizie che ci diano una determinata tranquillità. Io volevo dire questo, cioè mi sembra assurdo che dall'oggi al domani noi dobbiamo rischiare il posto di lavoro, pur avendo lavorato per 12 anni all'interno dell'INPEDAP, facendo comunque il lavoro che fanno tutti gli impiegati. Come, anzi, con mansioni superiori pure. Con mansioni superiori, appunto. Io attualmente sto facendo il protocollo dell'INPEDAP, cioè, quindi sono mi ritengo un dipendente INPEDAP a tutti gli effetti, e non capisco perché debba essere etichettato diversamente dagli altri. Cioè, è una cosa fuori dal mondo che dopo 12 anni io vengo ancora etichettato come ex portiere. Io sono un impiegato dell'INPEDAP, ho lavorato per l'INPEDAP, ho dato la mia vita per l'INPEDAP, perché ho preso un mutuo, ho preso prestiti, quindi voglio dire, siamo anche in una situazione particolare, perché se oggi, se domani l'INPEDAP ci licenziassero, ci dovrebbero togliere anche la casa, perché l'INPEDAP è possessore dell'ipoteca, quindi oltre al danno anche la beffa, perché senza lavoro, anche senza casa, cioè mi sembra una cosa fuori dal mondo. Io voglio dire a tutti i miei colleghi, i 700 che ci sono, probabilmente sono tutti in ascolto, che non dobbiamo permettere una cosa del genere. Dobbiamo comunque andare a buttare giù dalla finestra chi ha fatto questa cosa qui e chi non la vuole risolvere, perché sarà guerra, cioè voglio dire, non è possibile una cosa del genere. Ti posso interrompere, Massimo? Massimo, ciao. Ciao. Senti, allora, giusto per chiarire anche a chi ci ascolta quali saranno le prossime iniziative, l'abbiamo proposta e penso che, sentendo anche le telefonate, appunto tu stai telefonando da Cagliari, prima sono intervenute le telefonate da Verona, avevamo in programma anche contatti con Torino, con Firenze, con Reggio Calabria, non so se riusciremo poi eventualmente a prendere le telefonate, ma siccome appunto il problema è un problema che sta su tutto il territorio nazionale, io credo che la risposta che noi dobbiamo dare, e fra l'altro i colleghi che ci hanno parlato prima da Verona, dall'Aquila, non sono interessate, cioè non sono coinvolte nei 700, si sono sentite coinvolte rispetto al problema di vedere colleghi di lavoro trattati in questo modo. Sì, ecco, tanto per essere chiari, sentito. Allora c'è da affrontare la questione in maniera molto seria, e io da qui, da questi microfoni, voglio lanciare un'iniziativa, l'abbiamo già fatta, l'ho scritto in alcuni comunicati, bisognerà rilanciarla, e la faccio qui adesso da questi microfoni di Radio Onda Rossa. Noi dobbiamo bloccare l'attività dell'INPEDAP. Appena si riprende l'attività normale dell'istituto, noi dobbiamo proclamare una giornata di blocco totale, una, due, vediamo, perché poi bisogna iniziare anche ad alzare il tiro rispetto ai provvedimenti che vengono presi, perché sono provvedimenti pesantissimi che intervengono sulla vita delle persone. Certo. Allora, una giornata, due giornate, bisognerà assolutamente bloccare tutto tutto l'INPDAP, chiudere l'INPDAP. Siamo riusciti a bloccare alcune sportelli, alcune attività di sportello fatte su Roma, alcune altre situazioni, non so, per l'Italia, che adesso mi sfuggono, ma che ci sono state. Dobbiamo assolutamente bloccare l'attività dell'istituto per almeno una giornata, se non due. Questa è la proposta che lanciamo dai microfoni di Radio Onda Rossa. Ok. Un'altra Grazie. Cosa volevo sì. dire. Posso? Prego, prego, veloce, prego. Ah no, no, perché prima stavate parlando del taglio, che il 31 marzo verrà fatto il taglio dell'ulteriore 10% del personale. Mi è sorto un dubbio, ho detto, non vuoi vedere che questa soppressione dell'INPDAP vada a favore comunque di Mastro Pasqua, perché lui avrebbe dovuto mettere in mobilità 2500 dipendenti suoi, ma facendo il cumulo con i dipendenti dell'INPDAP ne dovrà tagliare 3000. E se i conti se i conti tornano, può essere che molti saranno quelli dell'INPDAP, salvando magari i dipendenti. Beh, io penso che rischiano ugualmente pure quelli dell'INPS, ma sicuramente però noi siamo la parte più debole in questa fase. 3000. Quindi se arriva gente, forze fresche da fuori, perché non tagliare le forze fresche lasciando i propri magari sotto il cuscino tranquilli? Questo è uno dei rischi, però io penso che, dato che l'operazione è complessiva, è un Mastro Pasqua, è uno che ha 27 incarichi, cioè non è che si preoccupa tanto dei propri dipendenti, capito? Cioè, nel senso che anche lì ci sarà un problema da scenari pulita, perché poi i 3000 noi l'abbiamo proiettato così, ma se ristrutturano, esternalizzano anche altre attività, il problema non so più 3000, ma diventano di più, perché questi, il disegno è quello di alleggerire più possibile, rendere meno efficiente possibile il sistema previdenziale pubblico, per poi darlo in gestione ai privati, cioè ai fondi pensioni gestiti dai sindacati e gestiti dall'assicurazione. Proprio per questo l'atteggiamento di chi lavora all'interno di questi enti dovrebbe essere improntato a quello della solidarietà reciproca, no? Certo. La lettera di Trichet, quella che viene di Trichet, di Draghi, che viene recapitata al governo Berlusconi, ha pochi punti chiari. Uno è l'intervento sul sistema previdenziale, un altro è quello del taglio degli organici della pubblica amministrazione. Adesso stanno realizzando questo. Adesso hanno abbattuta così, non è realizzabile, però vediamo. Dato che noi intanto magari salutiamo l'ascoltatore che ha il telefono. Ciao, buon anno a tutti. Ciao altrettanto. Dico, dato che ci paghiamo le pensioni, sbagliamo se non pagai la pensione per 5-6 mesi a questi qua, famo finta che se scordiamo, no? Cioè, così do un'idea. Perché c'è pure il sabotaggio, no? Come metodo di lotta della classe operaia. Cioè, non è la prima volta. Dato che noi il metodo di lotta della classe operaia che possiamo attivare noi, il sabotaggio, non paghiamo le pensioni a questi, lasciamole senza pensioni. Che c'è un'altra telefonata? Allora, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, io sono pensionato INPS e volevo confermare già quello che insomma veniva accennato come ipotesi. È già dall'anno scorso che l'INPS non fa più il 7,30 per i pensionati e quindi si è costretti a rivolgersi ai CAF, ovviamente in larghissima maggioranza sindacali, e quindi qui già c'è un tornaconto preciso, insomma, già un passaggio è stato fatto, insomma, quindi non l'assistenza da questo punto di vista non viene più erogata dall'INPS, insomma, quindi con preciso interesse da parte dei sindacati maggioritari che solitamente, insomma, è noto, gestiscono tutte queste cose qua, insomma, questo per precisazione, insomma, rispetto a quello che si diceva sulle iniziative. Io, insomma, da pensionato posso solo dire che è uno slogan abusato e non troppo, insomma, piacevole da dire, però veramente se non ora quando, per tutti i dipendenti INPDAP che stanno in questa situazione, se non si muovono adesso non so quando potranno farlo, insomma, quindi tutte le iniziative in campo credo che vadano portare avanti, e su questo la titubanza dei molti sarà, diciamo così, verrà meno, insomma, no? Perché poi è inutile aspettare che si mettano d'accordo tutti quanti. Questo accordo, per tanti motivi che già avete detto, o non è possibile o comunque non avverrà mai, e se quando avviene, avviene sui tavoli loro, è tutto al ribasso, insomma. Quindi se posso fare un invito, è quello veramente, insomma, di mettere in campo adesso e non aspettare tutto quello che si può, insomma. Ho finito. D'accordo, ciao. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Va bene, allora noi penso che sì. se arriva qualche altra telefonata, vabbè, apriamo, però penso che possiamo chiudere così, giusto perché abbiamo fatto cenno alla questione, appunto, della pensione privata. Io così, in chiusura, evocando scenari tragici ma purtroppo futuribili, proviamo a pensare e a immaginarci il nostro paese privato del settore della previdenza pubblica. Cosa potrebbe succedere? Intanto iniziamo a dire come funziona molto rapidamente, chiaramente, la previdenza complementare. In una situazione come quella italiana, lo stato attuale, in cui si viaggia a percentuali di disoccupazione sopra il 10% per alcune zone, quelle meridionali siamo sul 27-30%, così come da un punto di vista generazionale, per generazioni più giovani, con stipendi che stanno sotto i 1000 euro. Per le generazioni più giovani, chiaramente, insomma, anche ci troviamo su percentuali che sfiorano il 30%, i redditi, i salari, cioè, sono molto bassi, e le proiezioni future, certo, non lasciano intendere niente di buono. Il primo punto di domanda è: come si fa a versare una somma, insomma, da detrarre al proprio salario affinché vada alla previdenza integrativa? Dopodiché lo chiediamo a Ettore e a Massimo, che sono qui, insomma. La previdenza complementare, come sappiamo, è agganciata comunque a tutti gli strumenti azionari possibili e immaginabili, quindi evidentemente, insomma, è un gioco che fa comodo ai soliti speculatori. Il paradosso di questa partita è questo: in questi giorni i fondi pensione, la previdenza complementare, quindi che sono gestiti dai fondi pensione, hanno, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei pubblici dipendenti, o comunque del lavoro dipendente, hanno l'obbligo di investire una quota delle risorse che prelevano con il trasferimento del TFR, perché non ci scordiamo che la previdenza complementare, i fondi pensione, sono finanziati con il trasferimento della liquidazione del TFR, TFS, trattamento di fine servizio, che dir si voglia, verso la previdenza complementare, quindi i fondi pensione. Le risorse, queste risorse, dovevano essere investite in maniera garantista, diciamo, per una quota non inferiore al 20% in buoni del tesoro. Con i buoni del tesoro che stanno in picchiata, come in questo momento, anche quella quota di garanzia che degli investimenti viene meno. Allora, il paradosso è che uno strumento nato nell'ottica di una finanziarizzazione dell'economia, cioè prelevare risorse finanziarie da investire in borsa, lo strumento erano i fondi pensione, sulla scia di quello che si diceva prima, l'esperienza anglofona, no? Degli americani e dell'Inghilterra, che serviva per finanziare una borsa asfittica in Europa e in Italia in particolare. Allora, le risorse finanziarie prelevate del TFR potevano essere gestite in maniera tranquilla sui buoni del tesoro, che oggi hanno la storia che conosciamo tutti quanti e i rischi che stanno correndo. Per l'altra, sul sistema azionario. Il sistema azionario che significa? Intanto la libertà di investire rispetto a qualsiasi soggetto quotato in borsa, senza che i lavoratori che versano il loro TFR possano controllare minimamente la gestione di queste risorse, e con il rischio che è avvenuto la Enron, tanto per fare il nome fra i più eclatanti, quando fallì la Enron in America si trascinò dietro tutti i fondi pensione e i dipendenti in quella, ne sono spariti tre fondi e in quell'occasione i dipendenti dell'Enron persero il lavoro e persero anche la copertura pensionistica. Allora, il rischio dei fondi pensione è questo: non c'è garanzia della restituzione del capitale che uno ha investito e che ha versato. Questo è uno dei fatti. Un altro fatto è che, proprio come il modello, a me me l'ha spiegato uno che fa questa attività, è indicizzare la rata. Se per esempio fissi oggi per 30 anni un fondo pensione integrativo e stabilisci 100 euro al mese, non può rendere se questi 100 euro ogni anno aumentano del 20%. 120, che poi ogni anno devi mettere un 20% di incremento nella rata, altrimenti il fondo non reggerebbe. Per reggere deve avere una quantità di persone sufficienti, perché non gli funzionano i fondi integrativi che stanno, perché le persone non sono sufficienti. Cioè, il 25% dei dipendenti pubblici che ha scelto il fondo integrativo non garantisce questa situazione, ecco perché sono allarmati pure su questa situazione qua, no? E pertanto cosa? E se con i chiari di luna che ci stanno abbiamo visto che i stipendi non bastano, non ci sono più, nel senso l'hanno bloccato, non gli aumentano i contratti, aumenta il costo della vita, i stipendi pensano pure da abbassarli perché ci ha avuto una faccia di culo la moglie di Padaschioppa, gli disse: perché non vi riducete lo stipendio del 40% agli operai di Termini Marese per poter lavorare, no? Gente che lavora a 1000 euro al mese, il 40% doveva accettare un lavoro a 600 euro. Una che lo diceva che prende la pensione sua di 5000 euro al mese, perché è impensionata come professoressa universitaria, e la riversibilità di Padaschioppa pure, capito? E dice a quelli: riducete lo stipendio. Allora, davanti a questo scenario, chi può entrare nei fondi pensione? Non ci sarà mai un numero quantitativo che garantisce il fondo, non ci sarà possibilità, perché la gente come fa a versare dei soldi che non ce l'ha? Dopodiché questa è una grossa presa per il culo, no? In generale, che solo per fermarla, solo la nostra indignazione, la nostra incazzatura, la nostra ribellione può fermarli. E come diceva telefonata prima, se non ora quando? Che cazzo aspettiamo? Ancora diamo credito a queste persone che mistificano e portano le bandierine per strada? Io una cosa che c'ho in disagio quando vedi i lavoratori sopra i tetti con le cose che mettono le bandiere della CISL, della UIL, pure quelli della CGL, qualcuno che un po' di moina la fa, no? Ma mette le bandiere da quella, è un'offesa, è un ossimero della situazione, cioè non regge, perché sono loro che l'hanno portata a quella condizione, no? Eppure, se non ora, quando? Ecco qual è il discorso. Solo l'incazzatura. Quando io facevo per battuta, troviamo pure le forme di sabotaggio del sistema, noi non ci dovremmo vergognare. Non c'è lotta senza un costo. Dobbiamo sapere che quando si lotta c'è un rischio. Non esiste lotta senza una perdita nella prima fase, per le conquiste del futuro. Basta vedere nel passato i contadini di Vittorio, quanti ne hanno ammazzato, però avevano ottenuto un minimo di dignità, no? E tutti le conquiste, famose conquiste degli anni 70 che ci stanno a levare, e sono state pagate pesantemente anche coi morti. E noi dobbiamo saperlo, che dobbiamo entrare in questa fase. Se non ora, quando? Se la parola c'ha un senso, è questo. E su queste parole direi di chiudere. Possiamo chiudere. Tanto ci torneremo sicuramente. Lo spazio di oggi. Chi allora, tra l'altro, scelse di mantenere in azienda il proprio TFR ancora ringrazia di questa scelta, soprattutto insomma chi l'ha data come indicazione, perché i rendimenti dei TFR, delle liquidazioni, continuano a salire sono, diciamo, assolutamente garantiti. Che questo mo per ce dire li stanno bloccando, però. Ascoltare le sirene di certi sindacati, insomma, è davvero controproducente. Speriamo dunque quest'oggi di aver reso fruibile e chiara dal punto di vista dei contenuti una discussione magari un po' intricata, ma che certamente invece è di fondamentale importanza per tutti e tutte noi, perché si parla appunto di privatizzazione della previdenza pubblica. Chiaramente a vivere in modo drammatico questa situazione sono in particolare i lavoratori e le lavoratrici degli enti disciolti, quindi INPDAP e INPALS. Ci auguriamo che ci sia lo spazio di confronto politico-sindacale necessario affinché l'unità, così tanto invocata anche questa mattina, la si ritrovi a partire appunto dalle manifestazioni, dalle assemblee. Allora, grazie per l'ascolto. Abbiamo... giusto così per ricapitolare gli appuntamenti del palinsesto, probabilmente una corrispondenza da qui alle 13 e poi l'appuntamento consueto con il giornale radio di Onda Rossa appunto alle 13.